Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Una delle procedure più utilizzate da software che girano su computer, cellulari e tablet, ben nota a qualunque programmatore, è la generazione di numeri casuali. L'algoritmo che genera numeri casuali è una specie di dado digitale con moltissime facce e viene usato in un gran numero di circostanze diverse, dall'introduzione di casualità nei videogiochi alla generazione di identificatori per le transazioni finanziarie. In realtà siamo davanti a una casualità simulata. Infatti un algoritmo per computer è qualcosa di intrinsecamente deterministico, ma proprio come succede quando si getta un dado fisico, anche lui un oggetto che bene o male risponde a delle leggi deterministiche, ecco, basta una piccola variazione iniziale per rendere di fatto imprevedibile l'esito del lancio. Ebbene, il più diffuso algoritmo per la generazione di numeri casuali sta per cambiare praticamente in tutti i tablet, cellulari e computer del mondo. L'inventore del nuovo algoritmo è Sebastiano Vigna, che professore del Dipartimento di Informatica dell'Università Statale di Milano. Buonasera Vigna. Buonasera. Allora, beh, complimenti, non c'è neanche bisogno di dirlo. Ecco, ci faccio capire magari un po' meglio l'importanza della generazione dei numeri casuali nell'informatica. Io ho fatto un paio di esempi. Sì, allora intanto l'algoritmo è installato in uno specifico linguaggio che è JavaScript, che in effetti è in tutti i computer, cellulari e tablet. E diciamo la generazione è importante perché a volte serve generare degli eventi che sembrano casuali, per esempio le carte nel poker o l'estrazione di un biglietto, certo, della lotteria, e altre volte perché per esempio io voglio creare degli identificatori unici, che so, per prenotazioni aeree, e per farlo si estraggono dei numeri a caso. Se ne estraggo abbastanza, la probabilità di estrarre due volte lo stesso numero è praticamente zero. Quindi questi sono gli utilizzi in genere. Ecco, a proposito di JavaScript, che poi è il principale linguaggio con cui si ottengono diciamo così gli effetti dinamici in internet, delle pagine che sono in grado di interagire sostanzialmente, ecco, l'algoritmo usato da JavaScript è recentemente entrato in crisi, se così vogliamo dire. Che cos'è successo? Ma dunque, è successo che da 2-3 anni va di moda usare JavaScript anche nei server. Nei browser non c'era questo grosso problema, ma quando una ditta di scommesse online ha scritto il suo server con JavaScript e ha estratto gli identificatori delle scommesse usando il generatore di numeri pseudocasuali di JavaScript, dopo 3 giorni hanno assegnato lo stesso identificatore a 2 scommesse. Quindi ovviamente è tutto crollato disastrosamente. Questo vuol dire che questa funzione di random usata da JavaScript era una cattiva in realtà funzione, sì, cioè, questo è il problema. È chiaro che sono deterministiche, però sono delle funzioni scritte, sono dei programmi, però certo, noi facciamo dei test statistici sugli output di queste funzioni. Per esempio, prendo 1 milione di numeri, devono essere circa metà pari, circa metà dispari. Come questi test statistici, come questo test molto semplice, ce n'è di molto più complicati. Il generatore che usava JavaScript falliva tantissimi test, era un generatore di pessima qualità. Che poteva andar bene, diciamo, fino a un certo punto per le applicazioni, finché bisogna determinare il comportamento di un videogioco, chi se ne frega. Esatto, invece esatto, qua cominciavano a venire fuori problemi molto grossi. E qui veniamo al vostro algoritmo, che è un nome impronunciabile, da alieno XorShift 128+, non proviamo neanche a spiegare come funziona naturalmente, ma invece spieghiamo come è accaduto che sia stato adottato praticamente universalmente. Ma dunque, sostanzialmente io l'ho progettato perché mi sembrava mancasse, diciamo, sul mercato un algoritmo semplice, statisticamente ineccepibile e che fosse molto veloce. Quindi l'ho progettato uno che tecnicamente è il più veloce esistente, che passa dei test statistici molto forti e occupa poco spazio. L'ho messo online come software di pubblico dominio, chiunque lo poteva scaricare e utilizzare, ho messo online benchmark e poi l'ho lasciato lì. 2 mesi fa mi fa un post su Facebook un mio collaboratore Giuseppe Ottaviano e mi dice: questo è il tuo pezzo di codice che girerà su più terminali in assoluto. Ed era un riferimento al blog degli ingegneri di Google, che avevano detto: abbiamo tirato via il vecchio algoritmo e abbiamo utilizzato questo qui, XorShift 128, nella nostra implementazione. A seguire anche Safari, cioè il browser dell'iPhone, e Firefox hanno fatto la stessa scelta, per cui ora è in tutti i browser praticamente. Ecco, quindi questi signori di Google non l'hanno avvertita quando hanno deciso di adottare questo algoritmo? No, in effetti non avevo nessun dovere di farlo, io sarei stato contento di saperlo, certo, però insomma poi l'ho saputo tramite questo avviso di Giuseppe del blog. Ma tanto che mio fratello insegna sicurezza a Santa Barbara negli Stati Uniti, quando gli ho scritto di questa notizia, lui mi ha risposto: non ci posso credere, 3 settimane fa ho fatto una lezione esattamente su questo problema, ma non mi ero accorto che l'algoritmo era il tuo. Per cui proprio non si era accorto nessuno praticamente. Ma secondo lei quanti autori di codice sono disinformati dal fatto che magari Google lo sta utilizzando? Succedono spesso queste cose? No, me le dite, viene utilizzato continuamente software sviluppato in ambito scientifico e non lo sappiamo, questo è assolutamente normale. Ma è anche un bene, trovo, voglio dire, certo. Almeno usano del software scritto da persone che sanno quello che stanno facendo. Va bene, allora grazie Sebastiano Vigna. Grazie a lei dell'intervista e arrivederci. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.